Il cinema su Radio Onda Rossa quando sono le 13, 30 minuti primi di giovedì 28 novembre del 2013, 87.9 la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padrini e padroni, dalla pubblicità e la voce dei senza voce e la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, oppure basta andare sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce sull'home page, la voce sostieni, troverà anche la modalità PayPal. Per quanto riguarda Visionari invece le informazioni le trovate alla voce trasmissioni Visionari con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 28 novembre, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in Italia tra rassegne, festival e proiezioni, il link per ascoltare la puntata precedente e anche quelle del 2013 del 2012. C'è anche la pagina Facebook di Visionari e poi l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info. Diamo inizio ai collegamenti, puntata molto ricca tra festival e uscite in sala. Luca Ragazzi, coregista del documentario What is Left, in tour dal 1° dicembre prossimo. Luca, ben ritrovato. Ben ritrovato anche a te, grazie per avermi invitato. Allora, intanto chiariamo per chi ci ascolta cos'è questo titolo e cosa vuole stare a significare. Allora, questo titolo va detto così come il nostro film precedente che era Italy, Love It or Leave It, anche stavolta ci siamo affidati all'inglese, ma non per snobismo, ma perché in effetti l'inglese si presta a dei giochi di parole divertenti e questo What is Left in effetti è un gioco di parole abbastanza esplicativo fra cosa significa sinistra e cos'è rimasto. Ecco, questo in italiano non sarebbe stato traducibile, però dobbiamo un po' spiegarlo perché spesso mi accorgo dallo sguardo attonito dei miei interlocutori che non hanno capito il senso del titolo. Senti, poi andremo anche a parlare di questa formula del tour con il quale accompagnerete di persona le proiezioni in giro per l'Italia, giusto? Esatto. Noi abbiamo capito presto e adesso devo dire anche altri colleghi stanno facendo lo stesso che il documentario ha bisogno di essere accompagnato un po' come un bambino al primo giorno di scuola e quindi noi ci divertiamo ogni sera a creare il dibattito, il famoso dibattito anni 70 con il pubblico perché ci piace l'idea che appunto un film possa far parlare di sé ma anche far parlare di un tema, quindi in questo caso la sinistra italiana. Mm-hmm. Ecco, proprio a proposito di sinistra, il vostro lavoro è di soprattutto la tua figura, quella che esce fuori dal documentario è inquieto, una persona inquieta, un elettore di sinistra alle prese con i vari candidati della democrazia rappresentativa, insomma. Come l'avete pensato questo viaggio? Tra l'altro poi ha una formula molto curiosa come documentario che rasenta a momenti anche un po' la finzione, il gioco. Sì, assolutamente. Beh, per la serie ridiamone per non piangere. No, diciamo che inizialmente il film doveva essere diverso. Volevamo fare un film sulla sinistra per il fatto che quest'anno finalmente avremmo vinto le elezioni. Quando poi, mentre lo abbiamo cominciato a girare, ci siamo resi conto che le cose sarebbero andate diversamente. L'entrata in scena di Grillo ha sparigliato le carte, la rimonta inaspettata di Berlusconi ha fatto sì che abbiamo dovuto includere queste cose. Quindi è diventato un po' un diario dell'elettore di sinistra, come abbiamo vissuto questo ultimo annus horribilis, perché di fatto il film parte proprio dalle primarie del PD di novembre scorso ed esce oggi quando ci sono le primarie del PD e quindi se vuoi è stato un anno perso, no? Abbiamo perso tempo, abbiamo perso un anno e ora siamo di nuovo qui tutto da capo, tutto deve essere ricostruito, reinventato. Mm-hmm. In questo viaggio avete siete andati per i vari circoli politici di alcuni partiti, avete interloquito con alcuni candidati piuttosto giovani di vari schieramenti. Che quadro emerge da questa sinistra istituzionale, Luca? Beh, noi abbiamo scelto deliberatamente in questo film di far vedere che appunto c'è stato il famoso agognato ricambio generazionale, quindi siamo passati dall'avere il Parlamento più vecchio d'Europa a avere il Parlamento più giovane, e quindi abbiamo scelto nel nostro film di avere due ciceroni, una deputata di SEL e uno il deputato più giovane addirittura della Repubblica che è del PD, e un po' per far vedere che insomma sì, noi speriamo in un cambiamento, e se questo cambiamento non dovesse arrivare non potremo più dare la colpa ai vecchi che ci hanno mal governato, perché vorrebbe dire che anche le nuove generazioni non sono tanto meglio, ma a noi invece piace pensare che le nuove generazioni saranno meglio, e quindi loro devono rappresentare secondo noi un po' uno sguardo nuovo, più fresco sulla politica. Senti, e poi oltre a questo, la cosa che mi incuriosiva anche per quanto riguarda questa radio, insomma per la sua storia e il suo spirito, invece la politica vissuta dal basso, al di fuori del palazzo, c'è un che sentore rispetto insomma al viaggio che avete fatto in giro per l'Italia, in questo senso? Beh, questa se vuoi è proprio la cosa che secondo me emerge più forte dal film, o quantomeno che nelle nostre intenzioni dovrebbe emergere, spero che arrivi al pubblico, il fatto che ormai c'è uno scollamento talmente enorme fra la base e i vertici, fra la società civile e i politici, che non sono neanche sicuro che si potrà mai più ricucire questo scollamento, e questo viene fuori, si evince chiaramente da queste escursioni che abbiamo fatto nei circoli, dove appunto senti l'elettorato, la base del PD dire delle cose, augurarsi delle cose, e contemporaneamente invece in Parlamento stanno facendo l'opposto, no? E quindi questo insomma è abbastanza allucinante se ci pensi, perché vuol dire che proprio ormai c'è un divario enorme. E a questo punto arriviamo al tour, Luca, e anche qualcosa sulla formula che avete pensato, dal gioco a premi all'animazione che insomma costituisca un po' l'essenza di questo documentario, oltre alle classiche interviste e scene di quotidiana militanza. Ma guarda, ce le stiamo inventando un po' tutte per far parlare di sé il film. La più bella sarà che domani qui a Roma, sulla Cristoforo Colombo, verrà affisso un poster di 30 metri per 20 ispirato al nostro film, e poi ci sta questo concorso Instagram in cui la gente dovrà mandare una foto rispetto a quello che secondo loro rappresenta oggi la sinistra, e in più c'è questo giochino che ha già insomma ha avuto molte adesioni su Facebook, in cui bisogna riconoscere le parole di un cruciverbe. Insomma sì, stiamo un po' prendendola dal punto di vista, anche se vuoi, più ludico, perché comunque il film è un film che non si prende sul serio, è un film che forse se fossimo stati più bravi o più seri o più ambiziosi avremmo provato a fare un film più serio, ambizioso, non ci siamo riusciti, abbiamo fatto un gioco, se fosse un libro sarebbe un pamphlet, è un giochino divertente per ridere insieme e pensare anche un po' a questa nostra sinistra italiana, quindi era giusto affrontarlo così. C'è anche questa idea di fare questo quiz all'interno del film, che irrompe come una pubblicità inaspettata e che vuole un po' buttare sul tavolo così i temi cari alla sinistra, però ecco, tutto va preso non seriamente, ecco. Senti Luca, in chiusura parlaci un po' del tour, come l'avete pensato e organizzato? Ah sì, scusa, è vero, mi avevi domandato del tour, ho fatto come a scuola quando uno non sa la risposta e c'è la domanda. No, invece sono preparato sul tour. Allora, il tour parte domenica, domenica qui dal Sacher di Roma, e poi ogni sera saremo in una città diversa, il 2 a Firenze, il 3 a Parma, il 4 a Mantova, il 5 a Bologna e via dicendo, e ogni giorno si stanno aggiungendo date, ci sono esercenti illuminati in tutto il territorio che vorrebbero proiettare il film, e quindi sicuramente andremo poi a Napoli, a Catania, a Genova, e ogni sera appunto accompagnandolo anche noi. Facemmo così anche con il nostro primo film, con Improvvisamente l'inverno scorso, fu molto faticoso ma molto molto divertente e anche molto importante, e quindi ci piace pensare che questa volta replicheremo un po' quell'esperienza. E ripeto, ci sono moltissimi esercenti in questo paese che ancora credono nel cinema, nel documentario, e è giusto che anche il paesino più remoto abbia la possibilità, certo, per una sera di vedere un documentario sul grande schermo. Sì. Luca, dei riferimenti internet per saperne di più? Ah sì, allora guarda, il sito è www.whatisleft.it e lì si trova tutto l'aggiornamento circa le prossime proiezioni. Benissimo, un abbraccio e a prestissimo. Ti ringrazio, buona proiezione. Ciao. Luca Ragazzi, co-regista del documentario What is Left, in uscita in tour dal 1° dicembre. È con noi Antonello Zanda, scusate, direttore della terza edizione del Babel Film Festival a Cagliari dal 2 al 7 dicembre. Antonello, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buona giornata a voi. Allora, cos'è questo Babel? Cos'è? Allora, il Babel è un festival cinematografico dedicato alle produzioni in lingua minoritaria, cioè possono partecipare al festival soltanto film realizzati, parlati e con dialoghi in lingue minoritarie, cioè per lingue noi intendiamo lingue non nazionali, lingue non statali, quindi per esempio sono banditi film parlati in italiano, in francese, in inglese, in tedesco, ma sono accettati film parlati in basco, in occitano, in catalano, in sardo, in siciliano, in napoletano, tutte le lingue minoritarie, i dialetti, gli slang e persino il linguaggio dei segni. Bene. Questo è sostanzialmente il nucleo, l'idea intorno a cui abbiamo costruito il nostro festival. E la terza edizione è questa che inizia il 2 di dicembre e si conclude il 7. Abbiamo una giuria prestigiosa, abbiamo 8 premi che peraltro sono anche premi piuttosto consistenti. Noi assegniamo circa 22.000 euro in premi in questo concorso. Abbiamo tutta una serie di iniziative collaterali, 42 film in concorso, ecco. 17 documentari, 9 lungometraggi e il resto cortometraggi di finzione. E abbiamo tante altre cose, ma chiedimi tu magari maggiori dettagli che possono interessarvi. No, intanto mi interessava per esempio sapere quali sono i paesi di provenienza, vista questa richiesta delle lingue non nazionali. Guarda, sono 20 paesi diversi, extraeuropei ed europei. Se mi dai il tempo sono anche in grado di dirti quali sono, ma non è molto importante. No, certo. Sono 13 paesi europei, quindi Francia, Italia, Germania, Slovenia, Spagna, molti paesi europei, sì. E 7 paesi extraeuropei. Ci sono film che arrivano dal Paraguay, dalla Cina. Interessante, direi. Insomma, dalla Pennsylvania, negli Stati Uniti. Sì. Quindi in realtà noi abbiamo scoperto con questo festival che esiste una produzione sommersa di film parlati nelle lingue minoritarie, che è certamente una scelta difficile per chi fa cinema, perché ovviamente fare un film parlato in una lingua minoritaria vuol dire precludersi il circuito commerciale, perché questi film sono tutti sottotitolati. Senti Antonello, visto che è la terza edizione, sta crescendo, che tipo di risposta ha avuto finora? Ma la risposta è stata straordinaria, poi ti direi soprattutto con questa terza edizione. Abbiamo una risposta di critica e una risposta di pubblico. Abbiamo avuto circa 6.000 presenze nella seconda edizione per le 6 giornate di festival. In questa tornata vedremo un pochino quando sarà il pubblico, ma da quello che percepiamo, da quello che avvertiamo, credo che supereremo sicuramente i dati della seconda edizione di 2 anni fa. Ma già la partecipazione di film, nella edizione scorsa sono arrivati 72 film per la selezione, quest'anno ne sono arrivati 90. Eh sì. 90 produzioni internazionali, noi ne abbiamo scelto 64 che vanno in proiezione durante il festival. Il festival proietta film dalle 9:30 del mattino sino a mezzanotte, quindi abbiamo 64 film in proiezione, 42 come ti ho detto prima sono in concorso. Sì. A questo punto ti chiedo, Antonello, i luoghi del festival e poi riferimenti internet per il programma. Certamente, il programma lo si può trovare nel sito della Cineteca Sarda e del BABE, www.lacinetecasarda.it e www.babelfilmfestival.com. Le location sono la Cineteca Sarda, il promotore principale del festival è la Cineteca Sarda di Cagliari. Benissimo. Antonello, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere anche questa scoperta di questo festival. Anche per noi. E a questo grazie. Punto ci sentiamo durante il corso dell'anno e per le prossime novità. Perfetto, grazie. Ciao Antonello. Buona giornata a voi. Antonello Zanda, direttore della terza edizione di Babel Film Festival a Cagliari dal 2 al 7 dicembre. Visionari su Radio Onda Rossa. In collegamento con Alex Stellino, ci sei? Ci sono. Ecco, per parlare con te, visto che sei il responsabile della programmazione di Filmmaker Festival 2013 a Milano dal 29 novembre, quindi domani, fino all'8 dicembre. Intanto benvenuto su Radio Onda Rossa, Visionari. Grazie a voi. Allora, questa edizione 2013 come si caratterizza? Alex. Ma sostanzialmente con un'occasione da un evento d'apertura molto rilevante, oserei dire che è la presentazione per la prima nazionale di Alberi, che è una cineinstallazione di Michelangelo Frammartino, il regista delle Quattro Volte, che è stata realizzata appositamente per il MoMA di New York, che in Italia non era ancora arrivata, dato che Frammartino è uno dei registi cresciuti, si potrebbe dire, con Filmmaker. Ci sembrava l'occasione ideale per aprire il festival e quindi portare finalmente in Italia quest'opera breve, è un loop, quindi un filmato che va in rotazione, che riparte sempre da capo di 20 minuti e che troverà appunto luogo ideale al Cinema Manzoni, che è uno dei tanti cinema milanesi ormai chiusi, ma anche forse il più celebre, una sala enorme con oltre 1000 posti a sedere, che appunto non è più in funzione, è ancora agibile visto che riusciamo a fare questo evento. E quindi questo sicuramente è l'evento d'apertura, è una delle cose più importanti che proponiamo. Poi credo che l'altra, almeno che valga la pena segnalare, sia la retrospettiva. Filmmaker da sempre accompagna la programmazione dei film documentari del concorso e delle sezioni collaterali, una retrospettiva importante dedicata a uno dei grandi maestri del cinema documentario. Sono passati di qua i più grandi del cinema documentario internazionale. Quest'anno c'è Ross McElwee, che è un regista americano che insegna a Harvard e che fa dei film in prima persona, quindi dei diari autobiografici in cui però riesce a intrecciare la propria vita a eventi di rilevanza nazionale, si potrebbe dire, comunque dei film molto articolati, pur partendo da materiali che sono i filmini di famiglia, come si chiamano insomma in gergo, gli home movies, ecco. Sì. Alex, chiariamo anche per chi ci ascolta l'entità Filmmaker, cos'è e come si caratterizza? Sì, come dicevo, è un festival principalmente dedicato al cinema documentario. Cinema documentario di ricerca, c'è scritto nel bando di iscrizione per chiunque vuole mandare i propri lavori, ed è lo è storicamente, nel senso che da sempre in qualche modo sostiene questo tipo di cinema, oggi chiamato cinema del reale, in un anno poi come questo in cui il documentario di Gianfranco Rosi ha vinto il Festival di Venezia, insomma particolarmente rilevante come evento, e quindi si occupa di questo tipo di cinema, ma soprattutto è un festival laboratorio, cioè una cosa che credo pochi altri festival siano, ovvero una delle direttive principali del festival è proprio quella di trovare il modo di finanziare piuttosto che come dire, assistere i giovani registi nella preparazione delle loro opere, quindi da sempre Filmmaker produce dei film, muove, come dire, accompagna nei primi passi i giovani registi come il Frammartino che citavamo prima, ma Alina Marazzi o Silvio Soldini storicamente sono i nomi più importanti che proprio all'interno di Filmmaker hanno trovato il loro appoggio a muovere appunto i primi passi all'interno del cinema, e quindi noi portiamo avanti ormai da un trentennio questa attività, e quest'anno ci sono varie occasioni in cui si rispecchia insomma questo lato importante dei filmmaker, che sono una categoria dedicata ai giovani registi che si chiama Prospettive, e alcune occasioni in cui vedere le opere finanziate grazie a un bando della Cariplo l'anno scorso, che si chiama Nutrimenti Terrestri, Nutrimenti Celesti, in cui verranno presentati appunto i risultati o i work in progress dei ragazzi premiati da questo bando. Sì. Alex, quante opere presenterete quest'anno? E poi volevo chiederti anche i riferimenti, chiaramente per la internet, per la programmazione. Certo, ma il conto esatto non l'ho fatto, devo dire che a occhio credo siano una cinquantina, sono quattro sezioni ufficiali, quindi prospettive dedicate ai giovani, fuori formato di cui non abbiamo parlato, che è esplicitamente dedicata al cinema più sperimentale, poi abbiamo la retrospettiva, poi abbiamo il concorso e alcune occasioni importanti, forse vale la pena dire almeno due cose fuori concorso, che sono la presentazione di Materia Oscura, il film di Martino Apparenti e Massimo D'Anolfi che era stato presentato alla Berlinale, Tyr di Fasulo che ha vinto il Festival di Roma e I Corpi Estranei di Mirko Locatelli, che sarà anche questo presentato a Roma, che sarà il nostro film di chiusura. Sì, basta andare sul sito www.filmmakerfest.org e trovate tutte le indicazioni relative al programma, ai luoghi in cui si svolge e alle schede informative sui singoli film. Tra l'altro, se non ricordo male, fate parte di quell'insieme di festival milanesi che si sono coordinati, giusto? Assolutamente, sì, il Milano Film Network è anche questo nato grazie all'appoggio di Cariplo, quindi i sette festival milanesi si sono in qualche modo coordinati anche per unire le forze, date anche un periodo non facile per chiunque faccia cultura nel nostro paese e in particolare ecco i festival che hanno sempre meno sovvenzioni, ecco questo bando ha permesso di accorpare una serie di figure professionali come quelli che si occupano della sottotitolazione dei film, della circuitazione delle copie, dell'ospitalità, che quindi sono uniche per tutti i festival e lavorano nell'arco dell'anno alle varie manifestazioni, in qualche modo rendendo più facile la vita ai festival, alle poche persone che ad esempio in un festival come il nostro sono all'opera. Bene Alex, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, grazie molto. Ciao. Arrivederci. Alex Stellino, responsabile della programmazione di Filmmaker Festival 2013 a Milano da domani 29 novembre fino all'8 dicembre. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Martina Parenti insieme a Massimo D'Anolfi, registi del documentario Materia Oscura in uscita in sala a Milano. Ne abbiamo già parlato adesso con Alex Stellino al Filmmaker Festival 2013. Martina, ben ritrovata. Buongiorno. A tutti. A Visionari su Radio Onda Rossa, anche se quest'oggi non ci sarà Massimo che è impegnato nelle riprese. Sì, ci sono solo io. Ci sei solo tu. Tra l'altro Materia Oscura, ne stavo parlando con lui, gli ho proposto anche l'idea di proiettare al Teatro Valle Occupato martedì prossimo in contemporanea a questa uscita milanese e magari un collegamento Skype con voi e vediamo insomma, mi piacerebbe molto l'idea perché il documentario l'ho visto, mi è piaciuto e mi piacerebbe anche contribuire alla diffusione. La diffusione è sempre un fattore un po' critico dei documentari. Sì. Allora, si parla del poligono sperimentale di Salto di Quirra in Sardegna, aperto negli anni 50, il più grande dell'Unione Europea. Raccontaci un po' di questa avventura, Martina. Della nostra avventura o dell'avventura del poligono? Chiaramente quella è una sventura. No, noi erano un po' di anni che ragionavamo attorno a questo luogo, però era un luogo molto difficile da avvicinare perché insomma si capisce per svariati motivi. E quando abbiamo deciso sì che avremmo voluto fare il documentario sul poligono, siamo andati in Sardegna e prima abbiamo scoperto che c'era un processo in corso e questo in realtà ci ha un po' spinto a non farlo, perché ci immaginavamo che molti giornalisti, molte telecamere, molte, insomma, molte news sarebbero arrivate. In realtà quando siamo andati a fare il primo sopralluogo in Sardegna, ecco, non c'era nessuno che si interessava a questa inchiesta, non un processo, un'inchiesta, scusate. E allora abbiamo conosciuto il procuratore Fiordalisi e da lì abbiamo deciso, insomma, che era un luogo che per noi era molto importante raccontare. E poi abbiamo scoperto questo archivio molto, molto forte che c'è nel film, e questo, insomma, ci ha permesso di entrare dentro senza mai veramente andare a casa dei militari, non so come dire. Sì, sì, sì, tra l'altro l'archivio è militare. Sì, sì, è il loro archivio, perché loro proprio filmavano tutto, proprio perché essendo un poligono di razzi e di missili, il filmare era un fattore importantissimo proprio per studiare le traiettorie. Sì. Per cui loro non filmavano soltanto per documentare, perché comunque nell'archivio che noi abbiamo trovato ci sono anche il documentare per documentare, quello che uno fa, però moltissimo materiale è un materiale scientifico, è girato 800 fotogrammi prima di qualunque rallenti al cinema, insomma, e per cui molto prezioso. Martina, allora, uno tra i vari problemi di questo poligono c'è la sua vicinanza al mare, tra l'altro i razzi vengono sparati proprio sul mare, c'è il bestiame che viene allevato e fatto pascolare all'interno del poligono, dove sono interrate scorie radioattive e rifiuti di ogni tipo, e gli abitanti della zona circostante soffrono di leucemie e tumori. Sì, sì, il poligono è molto vasto e poi è un poligono non recintato, per cui per molti anni il bestiame ha pascolato sia a monte sia a valle tranquillamente in zone molto contaminate, che andavano via via contaminandosi sempre di più. Anche la falda acquifera, è una zona carsica, per cui i fiumi scorrono ovunque sottoterra, e anche i fiumi sono molto, anche l'acqua è molto contaminata, è tutto molto, molto insano lì. E la cosa, insomma, è che è lo Stato, questo è un poligono italiano, insomma, è tutto italiano, ecco. E queste cose si sanno da tanto tempo. Sì, sì. Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti, visto che hai citato il processo che ha preso avvio, se ci sono novità in tal senso. No. È un'inchiesta, credo ancora le udienze preliminari. Sì, sì, sì, sì. Le cose sono molto lunghe, anche perché appunto anche in questo caso è lo Stato contro lo Stato. Sì, sì. È un processo che interessa molto la Sardegna. In Sardegna se ne parla moltissimo, però poi nel resto dell'Italia, ma sembra che tutto questo non abbia alcuna importanza, abbia un'importanza relativa, insomma. Sì, poi tantissimi ragazzi hanno fatto il servizio di leva lì quando c'era ancora il servizio militare, cioè non è una cosa così lontana, ecco. E è un problema cruciale questo in Sardegna, perché la Sardegna è ad alta concentrazione di basi e poligoni militari. Sì, assolutamente. Ogni quarto della Sardegna ha un poligono grosso. Sì, sì, sì, sì. La sua probabilmente per la sua posizione strategica proprio al centro del Mediterraneo. Martina, volevo chiederti a ragionare anche un po' sul vostro modo di fare cinema, anche con la memoria che corre al vostro lavoro precedente, Castello, un cinema fatto di silenzi, di ampi spazi e di un'eleganza formale. A me piace molto la vostra anche ricerca estetica nelle immagini che fornite. Ecco, su questa caratteristica che costituisce il vostro cinema, spendiamo anche due parole, insomma, da parte tua. Allora, in questo film in Materia Oscura ci eravamo dati proprio come sfida quello di raccontare un luogo usando al minimo le parole, perché comunque vediamo che moltissimi filmati hanno in realtà il loro fondamento principale proprio nella parola. E questa era la sfida, ogni film noi ci poniamo una sfida, insomma, e la sfida di Materia Oscura era quella di provare a raccontare un luogo usando pochissimo le parole. e chiaramente le storie che noi abbiamo incontrato usando questa, usando pochissimo il parlato, la narrazione verbale, sono diventate un po' tutte delle storie simboliche, insomma, sì, perché sì, dei disastri di questo luogo potevamo soltanto raccontare, parlarne, insomma, con delle immagini simboliche, perché comunque questo è il cinema è un racconto per immagini. Sì, sì. La parola è della radio. Giustamente. Martina, mi piace anche questa scelta del titolo, che durante la conversazione della volta scorsa mi avevi chiarito sulla realtà, il cui 90% è costituito appunto da materia oscura, quindi l'invisibile, e quindi questa è la vostra idea di cinema e omaggio al cinema in questo titolo. Sì, sì, certo, era provare a raccontare quello che non c'è, quello che non, l'irraccontabile. Qui è un irraccontabile del male, insomma, sì, che è quello che succede poi profondamente, è inenarrabile, sì, per immagini, ecco. Certo. Allora, è stato presentato all'inizio dell'anno in diversi festival, è stato di passaggio anche a Roma, da lunedì 2 dicembre sarà per tutta la settimana in programmazione al Filmmaker Festival 2013 e magari il martedì 3 al Teatro Valle Occupato. Questa sera prenderemo una decisione in tal senso, vista anche la vostra disponibilità. E che rispetto a una distribuzione invece, che novità ci sono, Martina? Nessuna distribuzione, scarsa. Questo è un paese e di scarsa, lo dicevo all'inizio proprio, di scarsa distribuzione dei film. Sì, sì. Non c'è molto da dire in realtà, è un discorso che non sarà la prima volta che affrontate, insomma. Certo, certo. Eppure ci sarebbe un pubblico, sì, di questo sì, continuiamo a essere convinti. Lo stiamo anche scoprendo proprio in questa esperienza del martedì al Teatro Valle Occupato. Insomma, stiamo proponendo diversi documentari e la gente viene, per cui insomma qualcosa, sì, vorrà comunque dire. Comunque i documentari, al di là che qualcuno li ha definiti un genere di moda, ma non è vero, è però da anni che il cinema italiano dà il suo meglio nei documentari, certo, non certo nelle fiction, ecco. Certo, certo. Un sito internet per saperne di più sul vostro lavoro, Martina? No, non c'è ancora. Non c'è. Ogni volta lo chiedo, ogni volta, però ancora non c'è. È sempre la stessa risposta. Beh, a questo punto un abbraccio, spero di avervi in collegamento martedì prossimo al Teatro Valle Occupato e insomma speriamo bene anche per questa settimana milanese. Grazie. Ciao Martina. Anche a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Martina Parenti, che con Massimo Danolfi, ora impegnato in riprese, sono i registi del documentario Materia Oscura, in uscita in sala lunedì prossimo 2 dicembre e forse anche martedì al Teatro Valle Occupato qui a Roma. Pronto, eccoci. Eccomi con qua. Riccardo Sacchi di Eagle Pictures sulla distribuzione di African Safari in uscita in sala oggi giovedì 28 novembre. Riccardo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, mi è molto incuriosito perché purtroppo non sono riuscito ancora a vederlo, però insomma ho visto i trailer e insomma il regista è anche un nome che in questi lavori sulla natura è di una certa notorietà. Immagini spettacolari, quello che mi piaceva, ecco, l'idea di questa natura ripresa in completa libertà e lontana dall'umanità, giusto Riccardo? Sì, sì, assolutamente. Ha centrato in pieno Ben Stassen, il regista è uno specialista del 3D, noi diciamo l'abbiamo amato quando abbiamo acquistato e distribuito il primo film di animazione, Le avventure di Sammy, che, dove veramente la qualità del 3D è risultata superlativa, proprio detta di tutti gli addetti ai settori, per cui diciamo, con Ben Stassen alla regia e questo progetto che si avvaleva delle migliori tecniche stereoscopiche e tutta una serie di piattaforme, telecamere speciali, videocamere ad infrarosso, radiocomandate a distanza, riprese anche dall'alto, quindi da mini mongolfiera, da un aeroplano ultraleggero, ci siamo immediatamente innamorati di un progetto che secondo noi va vissuto assolutamente nel, diciamo, sul grande schermo in primis, dove si possono vivere delle emozioni, pensiamo, impareggiabili, perché vedersi, diciamo, entrare in sala il leone piuttosto che la proboscide dell'elefante sono veramente emozioni forti che possono veramente dare un coinvolgimento massimo allo spettatore, ecco. Sì, assolutamente. E oltretutto ci sono anche scene veramente delle vere e proprie lezioni d'amore per la natura, come quando ci sono i cuccioli di leone che sono spaventati da una testuggine, piuttosto che i due leopardi innamorati. Diciamo che c'è anche un'atmosfera veramente di relax e coinvolgimento, poi il tutto avvalorato anche dal doppiaggio di Pino Insegno, che ha curato anche gli adattamenti dialoghi, sì, e come sì, sappiamo sì, è uno dei più stimati e affermati doppiatori del panorama cinematografico, quindi sì, sì, veramente. Riccardo, nella migliore tradizione documentaristica, in questo caso di una spettacolarità elevata, e quello che traspare, oltre al fatto, insomma, che comunque è adatto a un pubblico trasversale, un po' per tutte le età, certo, è un grande rispetto per la natura. Assolutamente, diciamo che lo spirito di fondo è quello ambientalista, c'è proprio anche la ricerca di spingere il rispetto dell'uomo per dare il via alla sopravvivenza del mondo animale, quindi diciamo che assolutamente lo spirito è quello. Come dicevo, è una vera e propria lezione d'amore per la natura, poi tra l'altro è una spedizione straordinaria che parte dalla costa atlantica della Namibia e arriva alle cime del Kilimangiaro, veramente con dei momenti coinvolgenti, come dicevo prima, che soprattutto all'interno di una sala cinematografica veramente vengono vissuti ai massimi livelli. Diciamo che l'effetto 3D è fondamentale. Per questo prodotto è fondamentale, perché diciamo, documentari anche di ottima qualità se ne vedono tantissime anche in televisione, però qui siamo veramente in presenza di momenti diciamo veramente che danno quella sensazione, quell'emozione che solo il grande schermo può fornire, ecco. Senti, dove è già uscito, che tipo di risposta ha avuto, e poi volevo sapere anche in quante sale lo avremo qui in Italia. Ma noi lo distribuiamo in 90 copie circa. Non ci sono al momento risultati, quindi usciamo in Italia e poi staremo a vedere. Bene, bene. Io, Riccardo, ti ringrazio, un in bocca al lupo per questo African Safari, a risentirci presto. Vi ringrazio, a voi, buona giornata. Ciao. Grazie. Riccardo. Riccardo Sacchi di Eagle Pictures sulla distribuzione di African Safari 3D in uscita in sala oggi giovedì 28 novembre. Per le informazioni sulla scaletta della trasmissione di oggi, le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni visionari, c'è anche la pagina Facebook e poi l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info. Andrea Segre, regista del documentario In debito, in uscita in sala il 3 dicembre prossimo. Andrea, tu dici che non siamo più amici, ma io continuo a sentirti, ma come mai? Beh, perché è un periodo in cui è meglio non avere troppi amici. Allora, mi sembra che anche un periodo particolarmente prolifico il tuo, era uscito il film in sala. A proposito, ti chiedo anche come sta andando La prima neve. Ma La prima neve, devo dire, molto bene, nei limiti di una situazione che va affrontata. parlata seriamente di profonda desertificazione del paese dal punto di vista dei rapporti tra le sale e il pubblico e di forte controllo, insomma, da parte di poche grosse distribuzioni. In questo contesto si è difesa davvero bene, siamo a 500.000 euro che con le 28 copie iniziali che poi hanno oscillato a 35, 40, tornate 25, insomma più o meno una media di 30, è davvero un gran risultato, insomma, e il film ha ancora molta vitalità e sta girando un po' in tutta Italia. Senti, i motivi sono sempre gli stessi rispetto a questa disaffezione, la rete, la miopia degli esercenti, che altro? Ma sì, no, non si è fatto nulla di concreto per cambiare la situazione negli ultimi anni. Io, diciamo, evidenzio due motivi principali. Uno è la mancanza di supporto e diffusione nel paese di una cultura nuova dell'esercizio della sala, perché le sale che hanno trasformato le sale cinematografiche in spazi di aggregazione, produzione culturale, di complessità del servizio, non semplicemente metto sul film che mi dà la casa di distribuzione, quelle sale hanno buoni risultati e anzi raggiungono pubblico che normalmente non va al cinema. Le sale che invece sono rimaste passive a accettare le regole decise dall'alto di poche strutture di distribuzione non hanno costruito questo rapporto col pubblico e perdono pubblico di tempo in tempo, però la colpa non è degli esercenti. Mm-mm. La colpa è non aver costruito e diffuso questa nuova cultura dell'esercizio. Questo va fatto. Perché non lo si è fatto? Perché semplicemente i grossi interessi economici sono legati ad avere sale che invece sottostanno a meccanismi di distribuzione commerciale e che non producono cultura. Sì. E il secondo motivo infatti è che la stragrande maggioranza del mercato continua ad essere controllato a monte da pochissime persone. Sì, e se tu controlli un prodotto come un film, cioè un prodotto culturale, lo controlli a monte e non invece crei dinamiche virtuose di rapporto a valle con il pubblico, inevitabilmente prima o poi questo prodotto si inaridisce. Ecco, proprio con queste tue parole mi viene in mente l'esempio dei cinema chiusi che vengono occupati un po' in tutta Italia, come è stata in parallelo l'esperienza dei teatri, e invece si dimostra che la partecipazione, la gente vuole vedere cose e la partecipazione spesso è molto ampia durante le serate, le iniziative. Sì, questa è un'esperienza, però diciamo che io non ho nulla ovviamente contro l'occupazione di cinema chiusi, però ci sono anche esperienze non di occupazione ma di gestione, diciamo tra virgolette, legale della sala, che danno risultati veramente belli, e non parlo soltanto dei cinema in centro a Milano, a Roma, a Bologna, dove è un po' più facile, ma parlo anche di zone di provincia con esperienze molto belle che vanno dall'Edera di Treviso al cinema di Bari, adesso mi sfugge il nome, chiedo scusa, al cinema Zero di Pordenone e ad altre realtà, all'Arsenale di Pisa, insomma altre realtà dove il rapporto col pubblico è la cosa principale. Sì. Tra l'altro si è creata tutta una rete di sale d'esse in Italia che sembra funzionare piuttosto bene. Sì, va però allargata, ci sono l'80% delle città italiane non ha una sala che riesce a dare questa risposta. Mm-hmm. E l'Italia è fatta di città. Sì. Io sono andato in alcune delle città dove ci sono piccole sale resistenti, ma sono lasciate sole e schiacciate da meccanismi più alti di loro, invece vanno sostenute, e poi soprattutto va creata una nuova generazione di esercenti, cioè va detto a ragazzi giovani di 30-35 anni, prendete le sale, trasformatele non solo in sale cinematografiche ma in spazi di aggregazione culturale, in spazi di produzione artistica, di laboratorialità, di unione tra cinema e piccole osterie o piccole librerie, insomma quello che si fa in tantissime sale europee, fatelo, vi supportiamo, e questa è una nuova modo per fare impresa culturale che funziona perché i risultati ci sono. Però perché non lo si fa? Perché questa cosa qui è l'esatto opposto dell'invece dare carta bianca alle mega sale dei centri commerciali. Sì, però bisogna fare una scelta, insomma a un certo punto bisogna farla con chiarezza, senza continuare poi a dire oddio, il cinema va male. Senti, passiamo al documentario In debito. Raccontaci un po' cos'è questa storia. In debito è una storia antica in due sensi, nel senso che è una storia che parte nei primi anni 20 ed è anche antica nella sua produzione, perché in realtà l'abbiamo fatto un anno e mezzo fa, poi si è intrecciato appunto con la prima neve, per cui ha aspettato ad uscire ed esce adesso. L'abbiamo girato nel giugno-luglio del 2012, all'epoca delle elezioni in Grecia che sembrava dovessero causare la fine dell'Europa, la fine dell'euro, oddio adesso la Grecia ci affonderà, non so se qualcuno si ricorda di queste voci, e in quei giorni noi abbiamo detto non crediamo a queste voci, crediamo invece che la Grecia possa aiutarci a raccontare la crisi più dal profondo, ma non solo la crisi greca, l'essere in crisi generale del cittadino contemporaneo. E perché in Grecia nelle taverne di Atene e Salonicco esiste ancora e vibra ancora un'antica musica degli anni 20-30, che è il rebetiko, che nasce da un periodo di grandissima crisi, quella della fine della sconfitta, insomma, di quella che chiamano la grande catastrofe in Grecia, della guerra greco-turca e della fuga da Smirne di 300.000 greci. Da quella crisi nasce questa musica, che è una musica che sta al confine tra Oriente e Occidente, ed è una musica che guarda in faccia il dolore e la sofferenza rispondendo con forte dignità e dicendo in maniera molto forte e chiara che cosa significa essere in crisi. Infatti oggi viene ancora cantata e ascoltata da molti giovani nelle taverne di Atene, Salonicco e non solo, e siamo andati in quella taverna ad ascoltarle per permettere al pubblico europeo di imparare qualcosa dalla Grecia sulla crisi e non soltanto di accusarla di esserne una delle pericolose cause. Senti Andrea, come si è dispiegato questo viaggio? Come vi siete mossi? Beh, intanto tutto parte da Vinicio che seguiva questa musica e conosceva questa musica da ben prima di me, lui che me ne ha parlato, e poi lui ha fatto un viaggio nel marzo-aprile 2012, scrivendomi un diario a cui io rispondevo e che mi serviva per conoscere, per capire, che poi è entrato nel suo libro Tefteri, che tutta la prima parte è in realtà appunto una serie di lettere a me. E da quel diario poi io ho costruito un'ipotesi di regia, insieme a Bonsembiante, il produttore, abbiamo predisposto un viaggio che si è fermato in una decina di taverne di Atene e Salonicco, taverne nelle quali ho chiesto a uno o più musicisti a sera di stare ovviamente dentro al set che io dovevo allestire, perché fare un documentario musicale di una musica suonata live dentro a taverne mentre la gente mangia e beve ovviamente richiede un'attenzione particolare alla tecnica del suono, ma anche delle luci e tutto. Quindi di entrare dentro ad un set, diciamo, cinematografico, documentaristico, ma poi lì dentro lasciar partire l'atmosfera, la situazione viva, reale del suonare e del dialogare con il pubblico. In queste varie notti, che spesso finivano all'alba, abbiamo raccolto decine di canzoni meravigliose, di queste poi ho costruito insieme a Sara Zavarise e a Vinicio un percorso narrativo dentro al quale si muove anche Vinicio stesso, che è una sorta di io l'ho chiamato un flaneur, cioè un viandante notturno che passa da una taverna all'altra ascoltando e poi inizia a suonare anche lui insieme ai musicisti. Senti, mi veniva anche in mente questa domanda, anche stando all'idea di partenza con cui ti sei mosso, quali sono le novità che ti hanno sorpreso in questa ricerca, in questo viaggio? Beh, la sorpresa principale è quella di trovare tanti ragazzi giovani che conoscono a memoria canzoni di 100 anni fa, questa, e che le usano non come baluardi di conservazione identitarie, ma le usano per esprimere la loro rabbia di oggi. Cioè è uno strano mix tra tradizione, identità e anarchia, ribellione. È una cosa veramente forte, strana e in fondo forse più orientale che occidentale. Mm-hmm. E questa è la cosa che sicuramente mi porto dentro di più. E la settimana scorsa siamo stati ad Atene a proiettarlo il film, a presentarlo insieme a tutti i protagonisti, e il film mi hanno detto proprio stamattina che starà in sala ancora per un'altra settimana perché è andato molto bene, e quello che mi hanno detto molti ragazzi ateniesi, c'erano tanti giovani a vedere la proiezione, mi hanno detto: noi sapevamo che c'era questa cosa nelle taverne, alcuni di noi ci vanno anche, però non avevamo capito che era così importante. Adesso che lo vediamo raccontato da fuori capiamo che è davvero importante, perché per noi era normale. Sì, invece, e questo succede spesso, no? Questo succede spesso. Sì, anche l'importanza di uno sguardo esterno mostra sempre cose che probabilmente che ci sfuggono. Tu dici sì, ce l'ho, è così, poi invece in realtà scopri che, non solo è così e ce l'hai, ma che è veramente una cosa forte che può insegnare molto ad altri anche, perché poi il rebetico è una di quelle musiche tipo il fado, il flamenco, il blues, è una musica universale che poi ti fa vibrare dentro quel mix tra rabbia e dolore che c'è in tante vite, no? Sì, e soprattutto in vite che vivono periodi appunto di crisi. L'unica sfortuna del rebetico è che usa una lingua meno conosciuta dello spagnolo e dell'inglese, insomma, del portoghese, e quindi è meno nota, però ha la stessa potenza. Senti Andrea, che modalità di uscita ci saranno? Spiegaci un po' cosa avete. È una vera piccola rivoluzione, nel senso che Nexo Digital, che è una realtà che di solito fa eventi live o cose insomma abbastanza commerciali, anche legate a film restaurati, cult movie eccetera, ha visto il film ovviamente sull'onda della presenza di Vinicio, della sua importanza, però ha fatto una scommessa veramente forte, perché ha deciso di creare un evento, una giornata evento di uscita in 90 sale in contemporanea il 3 dicembre, e presentato via satellite da me e Vinicio dall'Anteo di Milano, e quindi il 3 dicembre è il giorno in cui andarlo a vedere. C'è ovviamente anche a Roma, al cinema Madison e in altri cinema, trovate tutto sul sito di Nexo Digital o sul mio blog. E poi dopo il 3 dicembre ci saranno alcune sale che continuano a mostrarlo, il 4 sarà a Udine, il 7 a Bologna, insomma ci sono altre sale, e poi sin da subito si può iniziare a chiederlo a Zalab, perché poi Zalab da gennaio ne curerà la distribuzione, quella che noi chiamiamo distribuzione civile, insomma attraverso percorsi di appunto cittadinanza e civiltà della cultura, attraverso le tante realtà che in questi anni stanno mostrando i nostri documentari. Quindi una bella alleanza tra un circuito tradizionalmente più commerciale, che però si apre ad un percorso di ricerca di racconto del reale, e una realtà che in questi anni ha costruito invece un percorso di distribuzione dal basso che ha dato i suoi risultati e che appunto è Zalab. Benissimo, Andrea, io ti abbraccio e a risentirci presto, spero. Volentieri, anche se non mi vuoi più bene. Ormai è conclamato. Dai, che ti voglio bene. T'abbraccio. Ciao. Ciao, buona vita. Andrea Segre, regista del documentario In Debito, in uscita in sala il 3 dicembre prossimo. Finalmente sono riuscita a prendere contatto con Greta De Lazzaris, regista del documentario Rosarno, presentato al Torino Film Festival ieri, oggi e il 30 novembre, che è sabato. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Greta. Grazie. Allora, Rosarno, il titolo già è piuttosto indicativo, la data, se ricordo bene, è il 2004. Sì. Raccontaci un po' di questa storia. Quale storia? Della data? No, del tuo lavoro, come insomma, come è nato, come si è sviluppato. Io sono andata a Rosarno per la prima volta un anno prima, nel 2003 in realtà, con Medici Senza Frontiere a documentare una loro missione. Sono stata là 3 giorni e ho deciso di tornare per la raccolta successiva, quindi nel dicembre 2004, per raccontare però non soltanto le condizioni di vita dei migranti, ma un'intera città. Ecco, una delle caratteristiche del documentario le scene dilatate di vita quotidiana, pochi dialoghi, e come nasce questa scelta stilistica? La scelta stilistica in realtà si è adattata al territorio, sì. Cioè, la Calabria è un territorio che parla poco, è molto difficile entrare, molto difficile prendere confidenza con le persone, molto difficile farle parlare, quindi mi sono semplicemente piegata al territorio. Sì. Sì, sì. Senti, scene di vita quotidiana, nel senso scene di lavoro nei campi, il dopo lavoro, i ricoveri dove trovano rifugio, tutti questi. Perché la vita a Rosarno è fatta di un po' di niente, cioè di queste piccole cose che noi consideriamo niente. Sì. Questo è. E poi si vedono anche singole persone o strutture come quelle cattoliche che in qualche modo si occupano di questi migranti lì. Allora, io nella miseria che ho trovato a Rosarno volevo raccontare un po' questa contraddizione, come quale poteva essere un punto d'incontro in questa miseria totale tra chi vive là e nato là e tra i migranti che sono soltanto di passaggio. Questi punti d'incontro sono, nei migliori dei casi, la Caritas, nei peggiori dei casi purtroppo sono episodi di violenza, quindi guerra tra poveri. Sì. Ecco, infatti una delle scene che fa un po' impressione è quella dei materassi, quando vengono consegnati loro dei materassi, insomma c'è una guerra a chi si accaparra il materasso, insomma scene di disperazione vera e propria. E c'è da dire che là all'epoca questa scena è girata nella cartiera di San Ferdinando, che è stata murata definitivamente dopo la rivolta. E in questo posto, questa fabbrica abbandonata, vivevano centinaia di ragazzi di etnie diverse e di etnie anche in guerra tra loro nei paesi di origine. Mm-hmm. Quindi c'era era un posto, insomma, una convivenza che ovviamente genera violenza. Sì. Oh, tra l'altro dicevi etnie diverse, anche parecchie donne. Ecco, nell'avvicinarti a questa varia umanità migrante, che impressioni hai ricevuto, Greta? La sensazione è quella della disperazione. Mm. Non so che cosa dire. Sono persone che non si possono immaginare un futuro. Mm, mm, mm, mm, mm. Non so che cosa dire su questo. Mm-mm-mm. Senti, sono che densità, cioè è un luogo Rosarno in cui è forte la presenza migrante, in che forme, cioè sono parecchie queste persone? Sono migliaia che arrivano ogni anno e stanno là da novembre a marzo, che è il periodo della raccolta. Sì. Il periodo della raccolta, scusami il mio italiano. E dopodiché piano piano comunque alcune persone si sono insediate, vivono là, soprattutto le persone dell'est Europa. E in alcuni casi si notano certe, nel tuo documentario sono abbastanza evidenti anche delle forme di sfruttamento di questa manodopera. Assolutamente è regola per gli agricoltori assumere gente in maniera irregolare. Mm-hmm. Non hanno, con i costi adesso delle arance ad esempio imposti dai mercati internazionali, loro non ce la fanno più. Sì, sì. E l'unica cosa che gli rimane è o abbandonare le proprie terre o assumere manodopera al nero, che molto spesso non viene neanche pagata, perché comunque c'è anche un intermediario che spesso è il caporale. Mm-hmm. Greta, volevo chiederti com'è stata la proiezione di ieri al Torino Film Festival e poi che futuro avrà il tuo documentario, se hai trovato o stai trovando una distribuzione. Allora, la proiezione ieri è andata molto bene, devo dire che il pubblico torinese è meraviglioso, è una cosa che mi piacerebbe vedere anche a Roma, cioè, le sale sono sempre piene, c'è un pubblico anche molto giovane. La mia presa è andata bene e la cosa che mi ha fatto più felice è aver ricevuto il consenso di calabresi impiantati a Torino. E quindi ho sentito a questo punto di non aver tradito un territorio. e il futuro di questo film non lo so, molto dipenderà dall'esito di Torino ovviamente. Sì, sì. E comunque sia, noi la prima cosa che io voglio fare comunque sarebbe portarlo a Rosarno se loro sono d'accordo. Se lo riconoscono, e poi di fare delle proiezioni in giro per l'Italia. No, distribuzione non ne abbiamo. Hai un riferimento internet per il tuo documentario? C'è una pagina Facebook che si chiama Rosarno, esattamente, e poi creeremo un sito web. Benissimo. E Greta, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Ringrazio voi. Ciao ciao. Buona giornata. Anche a te, ciao. Greta De Lazzaris, regista del documentario Rosarno, al Torino Film Festival, ancora oggi e sabato 30 novembre. E come ogni anno non può mancare Alberto Lastrucci, direttore della 54esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 30 novembre al 7 dicembre. Alberto, ben ritrovato. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. 54esima, fa impressione questo numero, insomma è un festival veramente storico per quanto riguarda questo paese. Sì, sì, ma guarda, poi se ti abitui a dirlo si passa la nonchalance, perché lo stimolo che del Festival dei Popoli è quello sì di portare avanti la sua lunga tradizione, ma aggiornando i propri contenuti, basandosi anche sulle istanze della contemporaneità. E quindi ogni anno è un punto a capo, è fare il punto della situazione, di quello che il mondo ci racconta, delle storie che i documentaristi sono andati a raccogliere, che si trovano tutti insieme per una settimana qui a Firenze. Alberto, quante opere più o meno presenterete quest'anno? Quest'anno abbiamo fatto cifra tonda, 100 film. 100 film, benissimo. Raccontaci un po' le caratteristiche dell'edizione di quest'anno. L'edizione si caratterizza innanzitutto per uno slogan che abbiamo voluto coniare, e per raggiungere anche un pubblico magari più difficile da attirare con la parola documentario, che è un termine un po' arcaico, a volte associato anche a concetti di noia e sbadigli, che invece noi sappiamo benissimo essere una paura che non ha nessuna legittimità. L'edizione di quest'anno si intitola Reality is More, ed è un invito a osservare la vita di tutti i giorni, la vita che ci circonda, quella vita che a volte possiamo anche credere che sia banale, perché in realtà a guardare attentamente si rivela piena di sorprese, le stesse che poi vengono raccontate nei film che presentiamo, in cui i protagonisti sono uomini e donne normali alle prese con la cosa più eccezionale di tutte, cioè la loro vita. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti se ci sono temi ricorrenti nelle opere di quest'anno. Naturalmente nella nostra ricerca, il Festival dei Popoli lo si realizza nell'arco di un anno, facciamo in modo insomma che tra i film che presentiamo non si dimenticano alcuni aspetti che hanno caratterizzato nel bene come nel male l'anno appena trascorso, per cui ci sarà una particolare attenzione al tema del rispetto alle donne, perché è proprio il momento di dibattersi tutti insieme per questo importante traguardo, quello di ottenere finalmente un rispetto che sembra negato dalle cronache, ahimè, di tutti i giorni. E lo faremo anche con dei film che evidenziano il problema, e anche con dei film a cui tengo particolarmente, in cui invece il messaggio è forte, nel senso che vengono presentati dei personaggi femminili assolutamente convincenti, assolutamente padrone del proprio destino, donne che affrontano le mille difficoltà della vita senza difficoltà e che possono essere di incoraggiamento e di modello. Un altro dei temi che affrontiamo è ovviamente il tema dell'immigrazione, che mai come quest'anno viene evidenziato come uno dei grandi temi dell'Europa. ci sono una serie di film che non sono stati segnalati in programma esplicitamente, ma è un percorso trasversale che lega un po' le varie sezioni, in cui si raccontano appunto i flussi migratori che arrivano da tutti i paesi che circondano l'Europa, in particolare ovviamente da paesi dell'area del Mediterraneo, e le storie di questi personaggi sono talmente appassionanti che io credo che qualcuno che abbia ancora dei dubbi su come andrebbero accolti queste persone se li fugherà, perché si fa il tifo per loro. Sapete benissimo che il cinema ha questa peculiarità, quella in cui i protagonisti poi accattivano le simpatie dello spettatore, e quindi proprio attraverso questo mezzo che è puramente cinematografico tu fai il tifo per chi sta cercando di trovare una concretizzazione al proprio sogno, che è il loro sogno europeo. Alberto, come è strutturato quest'anno il festival? È suddiviso in sezioni? C'è un concorso internazionale in cui presenteremo 8 lungometraggi, 8 mediometraggi e 8 cortometraggi, tutti inediti in Italia, e la giuria, una giuria internazionale, assegnerà il premio al migliore di ciascuna categoria. Quindi ci sarà un miglior corto, il miglior medio e il miglior lungo. A evidenziare che il cinema, quando è bello, non lo è per motivo dei minuti di durata, ma per altri contenuti estetici, qualitativi, eccetera. C'è poi una doppia retrospettiva che vede protagonista la Polonia. Abbiamo scelto di raccontare 40 anni di storia della Polonia attraverso il lavoro di due cineasti, Marcel Uginski e Paweł Uginski, che non solo sono da annoverare tra i principali registi maestri del cinema europeo, ma sono nella vita anche padre e figlio, e quindi averli insieme a Firenze è anche un'occasione per parlare un po' di come si trasmette nel DNA l'amore per il cinema. Benissimo Alberto, mi sembra un quadro esaustivo il tuo. Io ti abbraccio, un in bocca al lupo per questa 54esima edizione. Già fa meno impressione adesso che l'ho detto un'altra volta. A risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo a Firenze. Ciao Alberto. Alberto Lastrucci, direttore della 54esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 30 novembre al 7 dicembre. Stefano Martina, ben ritrovato. Salve, salve a tutti. Con te per parlare, visto che ne sei direttore da tempo immemore, Arcipelago 2.1 a Roma dal 2 al 6 dicembre, chiaramente ben ritrovato. Arcipelago 2.1, cosa sta a significare, Stefano? Sta a significare, come avevamo già annunciato l'anno scorso, all'edizione 2.0, un nuovo corso del festival. Ci si rinnova, o almeno ci si prova a rinnovarsi, un po' costretti dalla situazione economica che ovviamente investe potentemente e in maniera devastante in primo luogo la cultura, che è soggetta a tagli ormai indiscriminati, purtroppo. Tutti i nostri interlocutori della trasmissione di cinema, ma anche quella di teatro, è la stessa partenza, è questa, insomma. Sì, purtroppo questo è il tasto dolente, non c'è niente da fare, o almeno così sembra, quando appunto invece bisognerebbe in modo lungimirante investire proprio nella cultura, che è il nostro patrimonio più importante per noi in Italia, insomma. È il nostro petrolio, ormai è un luogo comune, ma insomma non mi pare che da questo orecchio ci si senta più di tanto. No. Allora, intanto quali sono le caratteristiche, anche per chi ci ascolta e non stranamente non vi conosce, le caratteristiche di Arcipelago? Ecco, no, appunto, quindi riprendendo anche dalla domanda precedente, l'altro aspetto per cui questo è l'inizio di questa edizione, l'inizio di un nuovo corso, riguarda proprio il rinnovarsi graduale ma sensibile, insomma, della formula di festival che ci ha rappresentato per tanti anni fino a oggi. Per cui quest'anno noi continuiamo ovviamente a mantenere, diciamo, un'edizione annuale del festival, che però abbiamo spostato a dicembre, e per tanti anni siamo stati collocati in una posizione più estiva, a giugno, e anche sale, perché abbiamo lasciato con grande rammarico l'Intrastevere e ci siamo spostati in un luogo nuovo che si chiama Ambra la Garbatella, che è una struttura molto interessante, una specie di piccolo ecosistema dove c'è anche un bistrò, eccetera. Sì, poi è un'ampia sala. Sì, è un'ampia sala, poi ha anche molti altri spazi utilizzabili per un festival, e non solo ovviamente per un festival. Diciamo è un luogo più comodo per certi aspetti, più articolato, eccetera, e ci somiglia in qualche modo, sì, per questo sì. Ci siamo reciprocamente scelti. E allora questo è il luogo in cui, per esempio, altra novità di questa edizione, che non abbandona certo i cortometraggi del concorso internazionale, né quelli tantomeno del concorso nazionale, che è stato un po' sempre il nostro baluardo, anche più rappresentativo, perché abbiamo scoperto tanti talenti che oggi sono noti anche al grande pubblico, ma abbiamo, ecco, così ci siamo inventati, volendo anche noi occuparci di web series, noi che da tanti anni insomma lavoriamo su internet, anche a livello di riflessione, di dibattito, eccetera, sin dalla fine degli anni 90 avevamo un po' intuito che internet avrebbe preso il sopravvento per quanto riguarda sia alcuni aspetti della creatività e quindi del linguaggio espressivo, sia soprattutto sul piano della distribuzione e della diffusione. E allora anche noi finalmente siamo entrati, dopo tutto questo pensare, riflettere, avevamo per tanti anni un concorso online, eccetera, adesso ci siamo buttati anche noi sulle web series, anche se in un modo un po' diverso. Innanzitutto, a differenza di altri festival, le proiettiamo per intero. Sì. E poi ci siamo inventati questo spazio che è una via di mezzo tra una sala e anche però un salotto, uh-huh. Un salotto domestico, per cui una fruizione che si avvicina di più a quella che normalmente abbiamo a casa, dove ci mettiamo davanti al computer e ci godiamo magari in treatment piuttosto che Lost in Google e tante altre serie straniere anche che abbiamo selezionato. Mentre invece fa un po' strano vederle in una sala grande con un grande schermo, eccetera. Per cui siamo inventati un salotto, un web lounge, come l'abbiamo soprannominato, e ovviamente sarà anche online sul nuovo sito filmoids.net, che è di prossima uscita. Beh. E che sarà un po' la nostra, come dire, il nostro incrociatore che andrà all'avanscoperta per i prossimi anni e detterà un po' la nuova fisionomia del festival, che sarà molto più presente su internet, senza per questo abbandonare il mondo reale. Tanto è vero che quest'anno abbiamo fatto più cose di quando le cose andavano meglio. Per esempio sono stati a Bari ospiti del Bifest, del Bari Film Festival, a marzo, dove siamo diventati, come sezione concorso di Arcipelago, il concorso ufficiale dei cortometraggi italiani del Bifest. Mm-hmm. Abbiamo fatto Una notte del corto il 21 settembre a Roma, che non si era mai fatta nella capitale un'iniziativa del genere, che è andata straordinariamente bene. Quindi insomma ci stiamo muovendo molto, paradossalmente meno soldi abbiamo più ci diamo da fare. Sì. Sarà grave, non lo so. In genere è così. Senti Stefano, facendo anche un po' di numeri, qual è la mole di proposte di questa edizione? Ma guarda, quest'anno appunto, essendoci in grande incertezza fino a pochi mesi fa sui finanziamenti, eccetera, abbiamo preferito fare una selezione diretta, quindi senza bando. Sì. Fermo restando che il concorso nazionale dei corti è esattamente quello che abbiamo proposto a Bari, ma che altra piccola sperimentazione, riproponiamo in concorso con una nuova giuria. A Bari era una giuria popolare guidata da Daniele Vicari, unico professionista di quella giuria, e invece qui sarà, come nostra regola, una giuria di professionisti, insomma. Mm-hmm. Quindi diamo una seconda opportunità agli stessi cortometraggi che già sono stati in concorso a Bari anche qui a Roma, quindi c'è il rischio magari che chi ha vinto a Bari vinca anche di nuovo a Roma, oppure no, chissà. Sarà una sorpresa e sarà interessante vedere insomma il tipo di reazioni anche del pubblico, che sarà sicuramente diversa. Sì. Senti Stefano, in chiusura diamo i riferimenti internet per la programmazione? Sì, il programma è online proprio da pochissimo su www.arcipelagofilmfestival.org. Naturalmente si trova anche su Facebook, anche sul sito di Ambra Garbatella e Casa del Cinema, che è appunto la nostra seconda location. Il primo sito è www.ambragarbatella.com, il secondo è www.casadelcinema.it. Un abbraccio Stefano, a risentirci presto. Grazie a voi che ci seguite sempre. Ciao ciao. Ciao. Stefano Martina, direttore di Arcipelago 2.1 a Roma dal 2 al 6 dicembre all'Ambra Garbatella. Con lui chiudiamo la puntata di questa settimana. Visionari torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, anche se un po' da ormai un po' di tempo stiamo cominciando sempre prima, ma voi tenete l'orecchio aperto e insomma lo scoprirete. Per i riferimenti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@landarossa.info. Su internet trovate la scaletta di quest'oggi sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 28 novembre, i nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per la settimana sul piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni, il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana, ma anche quelle del 2013 e del 2012. E c'è anche la pagina Facebook, ricordo l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo.